Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi. Eccoci qua, 8 e 11 minuti, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. Ben ritrovati cari ascoltatori, 800 24 00 24. Stiamo insieme fino alle 10 nella puntata della domenica, nella nuova stagione. Come potete sentire, siamo in leggero anticipo rispetto a quello che accadeva nella vecchia stagione. Esatto, mi guardi per cercare di capire se ho già bevuto il caffè o meno, mi sembra. E siamo in anticipo e... Beh, però è sempre più tardi di quello che iniziamo il sabato, quindi diciamo il grado di lucidità della domenica mattina dovrebbe essere maggiore. Giusto, ma è la prima settimana, non ho capito niente degli orari, è la prima settimana, quindi praticamente è da venerdì che dormo dentro la radio, così Alessio quando arriva mi sveglia e... Si può fare. Cronache da un paese migliore. La grande fuga dall'uragano, scrive così con un grande titolo Repubblica, e all'interno poi ci sono anche le foto intanto su Cuba, che è stata colpita parzialmente, come dicevi tu Carlo, da Irma, dall'uragano, però l'effetto è stato abbastanza importante perché ci sono un blackout c'è stato. Diverse zone alluvionate, e la foto riguarda proprio l'alluvione, perché i danni, oltre all'effetto dei fortissimi venti, c'è poi tutta la questione dell'acqua, l'acqua che cade giù, ma anche dell'acqua del mare che sale, perché per esempio in Florida sono attese 3-4 addirittura quasi 5 metri di acqua sopra il livello del mare. Il Fatto Quotidiano invece non apre sull'uragano, ma noi stiamo con Milena Gabanelli, la questione di Milena Gabanelli che si è autosospesa e insomma va verso altri lidi e non parla dell'uragano. Così come mi dicono che Libero, io non ce l'ho qua davanti in questo momento, non parla, l'ho sentito prima da Giulia Crivelli, degli stupri. Già l'abbiamo detto ieri. Anche ieri Libero ha deciso che ci sono stupri di serie A e di serie B. Qualcuno ha detto si sta aspettando di scoprire che i carabinieri fossero di colore prima che Libero li metta in prima pagina. Perché poi ricordiamo che questa non è una vera e propria rassegna stampa, l'avete sentita prima con Giulia Crivelli che la fa dettagliatamente. Noi diamo un'occhiata fa quella ai giornali bella di oggi cercando buone notizie. Ripeto, stamattina è difficile trovarne. La stampa scrive: Firenze, le ragazze americane abbordate al bar dai carabinieri, svolta nelle indagini, c'è un testimone, un militare confessa e dice erano consenzienti. La procura valuta l'arresto per gli stupri, il sindaco non è la città dello sballo, le studentesse che dicono vogliamo restare. E poi ancora anche un dubbio se vogliamo su questo erano consenzienti, sì, nel senso che nel momento che loro li hanno denunciati è un consenso poco informato. Allora invece dicevamo sulla questione uragano, ma anche la questione maltempo in Italia, l'emergenza, una pagina di Repubblica: l'Italia tropicale tra bombe d'acqua e siccità, eventi sempre più estremi, gli esperti parlano di atmosfera carica di energia, più fa caldo d'estate più l'aria si riempie di vapore acqueo, vapore che si scarica in autunno, sintetizza Carlo Cacciamani. appena nominato responsabile di quel centro funzionale centrale della protezione civile che sta diramando gli allarmi in molte regioni. L'estate torrida e il riscaldamento del Mediterraneo hanno causato un surplus di evaporazione. È tutta benzina che si aggiunge a una situazione già di per sé instabile. Quali sono le situazioni più instabili? Genova, allarme rosso ieri. Piemonte, allerta gialla oggi, poi c'è Venezia dove è prevista acqua alta, ma nei prossimi giorni. In tutto il Veneto, allarme nubifragi fino a venerdì, è veramente un bollettino delle allerta, ma va detto. Firenze, allerta arancio sabato notte e domenica, cioè oggi. E via andare. Anche... Allerta arancio è una via di mezzo fra rossa e gialla. E gialla. Campania, allerta arancione ieri e oggi. E anche in Puglia, in alcune zone della Puglia, in particolare a Lecce. Ieri c'è stata una tromba d'aria che per fortuna non ha fatto gravissimi danni. Poi ancora, che dire, altri titoli. Beh, Guillermo del Toro che vince a Venezia con il suo film, quasi tutti i giornali lo riportano. Però ha citato, beh, sì, penso citato, di sì. Ha citato il nostro Sergio Leone. Certo, ha detto questo premio è il premio Sergio Leone, esatto. Avendo lui vinto il Leone d'Oro. Sì. È come se avesse vinto il Sergio Leone d'Oro. Esatto. E allora, poi ancora, c'è un'altra notizia, cari ascoltatori, che ci possiamo chiedere se è una buona notizia oppure no. Alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, la Francia, la Germania, la Spagna, stanno valutando mettere la cosiddetta web tax per colpire i giganti della rete. Di farla pagare a quelli che vanno, esatto, quelli che vanno in Irlanda piuttosto che in altri paesi dove si pagano meno tasse, eludendo le tasse. Però è il problema del web, che non si sa mai. Tu puoi anche essere in Irlanda, ma ovviamente stai operando anche sul territorio italiano. Ed è proprio questo che vorrebbero, diciamo, mettere al centro di questa operazione fiscale questi quattro paesi che hanno un peso importante nell'Unione Europea, quindi potrebbero essere in grado di portarla avanti, questa web tax, che si rivolge a Google, Amazon, Facebook, Apple, ma anche Airbnb, Booking. Queste sono le principali compagnie, ce ne sono forse altre. No, no, certo, ma mi stavo chiedendo, tu dici è una buona notizia perché quando le tasse le pagano gli altri dovrebbe essere una buona notizia, in questo senso? Soprattutto quando la pagano quelli che fanno fatturati giganteschi, sbalorditivi. E poi sembra, stando a quegli accertamenti, che a quello che dicono gli esperti, di tasse ne pagano poche. Allora, però, siccome noi siamo Si Può Fare e dobbiamo portarle delle buone notizie, facciamo la classifica Si Può Fare delle 5 migliori notizie della settimana. Allora, iniziamo con una piccola notizia che riguarda il Real Bosco, il di Capodimonte, che adotta la stessa iniziativa che è stata fatta anche altrove, ma anche a Central Park, dove per cifre un po' più consistenti, $7,500, potevi acquistare, come dire, una panchina, adottare una panchina del Central Park. Qua con soli €500 puoi fare la stessa cosa, dai una mano al Real Bosco e viene messa una piccola targhettina col tuo nome che ricorda che sei stato un gentile donatore di panchine. Di panchine. Bellissimo. Una piccola buona notizia. Alla posizione numero 4, Cascia riapre il primo albergo dopo il terremoto di ottobre. È stato completato in soli 5 mesi l'intervento di ripristino della struttura alberghiera Hotel Monte Meraviglia di Cascia, che è appunto stata danneggiata dal sisma del 30 ottobre. Con 130 camere rappresenta una delle attività alberghiere più significative della città e soprattutto la prima a tornare in piena attività. Ci sembra un buon segno e per dirla come con le parole di Vasco Errani, che ha detto: questa inaugurazione è per me una ragione di grande gioia e ci dice una cosa molto importante: si può. Ecco, noi aggiungiamo si può fare. Certo. Al terzo posto, una notizia di cui si è molto parlato anche a Radio 24, che nasce da un lutto, da una cattiva notizia naturalmente, che è la scomparsa di un imprenditore di 39 anni, Andrea Comand, che è morto a causa di un tumore a luglio di questa estate. Bene, lui ha scelto di lasciare interamente la propria azienda ai dipendenti per far sì che non si disperdesse questo capitale, che non perdessero soprattutto il lavoro e potessero portare avanti l'attività. Quindi un gesto di grande generosità, e speriamo che questi dipendenti siano all'altezza naturalmente di questo bellissimo gesto. Bello, bellissimo, vero. Al secondo posto siamo a Brescia, arrivano 20 nuovi bus a metano e così Brescia diventa la flotta più green d'Italia. Hanno presentato questi nuovi mezzi che serviranno la città e Desenzano e che portano a circa il 90% il chilometraggio complessivo che viene effettuato con mezzi a metano. È una bellissima notizia. E siccome ci siamo incraniati, intestarditi sui mezzi pubblici, la prima buona, migliore notizia della settimana è questa: mezzi pubblici, autobus, tram, quel che l'è, gratis in Emilia Romagna per gli studenti delle scuole elementari e medie. È un piccolo gesto. In molte città sappiamo che ci sono esenzioni per i bambini under diverse fasce di età, però qua si è deciso proprio di dare un segnale a tutti i bambini, ragazzi che riprendono l'attività scolastica, tutti sui mezzi gratis. Io però immagino già l'ascoltatore di Radio 24, magari quello di Oscar Giannino: paghiamo sempre noi, chi è che paga queste cose qua? Allora, rimaniamo umani, parliamo di bambini, rimaniamo anche un po' lucidi, perché questo è un piccolo segnale anche di educazione nei confronti dei ragazzi. Più persone vanno sui mezzi pubblici, meglio stiamo tutti. Quindi insomma, un gesto anche educativo nei confronti dei giovani di Bologna e dell'Emilia Romagna. Si chiude qua la classifica delle 5 migliori notizie di questa settimana. Eccola qua. Però, siccome vogliamo dare uno sguardo anche in avanti, non vogliamo stare solo sul presente, Carlo. Abbiamo i giornali del futuro. Abbiamo i giornali del futuro. In questa nuova edizione abbiamo qualcuno che ci fa dei si può fare dal futuro, dei si potrà fare. E io sento che dal futuro ci vuole dire qualcosa il nostro Massimo Temporelli. Sentiamo un po'. Ciao Alessio, ciao Carlo. Sono Massimo, sono nel giugno del 2032, non so a voi quale data corrisponda, sono nel futuro e sono molto emozionato, sono a sud di Amsterdam, sto per partire per un viaggio che mi ricongiungerà dopo 2 mesi con mia figlia Mia, che ha 20 anni e ha deciso l'anno scorso di andare a fare l'Erasmus su Marte. Sto per prendere la navetta che mi porterà... Mi hanno chiesto se avevo il biglietto per essere ibernato. Il viaggio durerà circa 39 giorni, siamo nel punto più vicino, sono nel punto più vicino al pianeta e quindi ci metterò solo 39 giorni. Un po' di mail a cui rispondere, quindi non prenderò il sonnifero che mi terrebbe addormentato per 39 giorni. Insomma, io so che lì ne state ancora parlando, ma è tutto vero. Nel 2032 si volerà su Marte, ci saranno già le prime colonie e i primi studenti stanno andando là. Ciao! Hai capito, Massimo Temporelli? Ma senti un po'. Gente ibernata, gente che va su Marte, è una follia? No, se ne parla molto. Sono ipotesi. Elon Musk sta investendo molto, ci sono aziende quotate alla borsa americana che stanno facendo questo, che stanno già vendendo quasi i biglietti per andare su Marte, però sentito Temporelli ci ha detto che effettivamente tutto questo è accaduto veramente. È accaduto. A proposito comunque di notizie dal futuro, in realtà abbiamo la rassegna stampa dei giornali che sono usciti oggi, che però come si sa sono stati scritti ieri, invece su Repubblica Online una buona notizia subito: il matrimonio fa bene al cuore e allunga la vita. Uno studio inglese che ha avuto un infarto ed è in coppia sopravvive di più. Ma che bello. 800 24 00 24, torniamo tra poco, parliamo della sperimentazione in alcune classi delle scuole elementari italiane, dove si prova per il secondo anno consecutivo a fare la scuola senza compiti a casa. 800 24 00 24. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I don't know. Allora, è con noi il preside dell'Istituto Cesare Pavese in provincia di Biella, Antonello Papa. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno preside. Allora, perché lo abbiamo detto, non so se sto parlando con Alessio o con Carlo. Con tutti e due. Con entrambi. Quella che l'ha appellata preside sono io, sono Carlo, perché subito ho detto domenica il preside. Oddio, sono già dal preside. Ha per subito quello. abbassato la cresta. Sono quello con la remoscia. Senta preside, allora parliamo con lei, perché la sua è una delle scuole, una delle 166 scuole, quasi tutte elementari, ma anche in alcune medie, dove si sta sperimentando, credo per il secondo anno consecutivo, la scuola senza compiti. Fra l'altro, la prima domanda che le voglio fare, preside, è: senza compiti a casa, zero compiti, pochi compiti, medio compiti, come funziona? No, guardi, allora, la sperimentazione non è centrata su non dare compiti a casa, la sperimentazione è centrata su un'organizzazione didattica diversa dell'orario. Questo ci permette poi di far svolgere tutte le attività che sono utili allo studente a scuola, e quindi il fatto che non si danno poi i compiti a casa è dovuto al completamento. Quindi non si danno compiti, zero compiti. Ma non nel senso che sta, lì, che i ragazzi stanno lì fino alle 8 di sera a scuola, no. Perché sennò uno dice certo, no, basta compiti. No, assolutamente no. Assolutamente no. Viene concentrato l'orario di alcune discipline con le discipline letterarie piuttosto che le discipline scientifiche. Ci faccia un esempio, preside, ci faccia un esempio di una mattinata tipo di un bambino coinvolto in questo progetto sperimentale. Ingresso ore? Ingresso ore 8:30. Normale, quindi. Sì, uscita? 12:30. 12:30, c'è poi la mensa, sì. Una scuola a tempo pieno, e poi ci sono le attività didattiche sino alle 16:30. Ok, perfetto. Allora, quindi parliamo in questo caso del cosiddetto tempo pieno, giusto? Tempo pieno. Perfetto. Pieno, sì. In questo caso il bambino all'uscita di scuola alle 16:30 torna a casa, va a fare sport, va con gli amici, fa quello che gli pare. In questo, diciamo, lasso di tempo che c'è tra quando esce a scuola e quando ritorna a scuola, sono previsti dei compiti a casa di nessun tipo o di qualche tipo? Pochissimi compiti a casa, in cui si può approfondire quello che è stato fatto a scuola, ma non c'è nulla di diverso, di nuovo, da dover studiare. Perfetto, perché le faccio queste domande molto di sequè per capire proprio esattamente, vabbè, noi la scuola l'abbiamo fatta molti anni fa, quindi facciamo ancora più fatica a ricordarcelo, però insomma... Però facevamo un sacco di compiti. Esatto. Beh, dipende, in alcuni casi, insomma, sì, in altri meno. Ecco, quindi questa è la descrizione. Quali sono le motivazioni per cui si sta facendo questa sperimentazione, che come diceva lei è qualcosa di più del semplice basta compiti, che poi diciamo è il titolo che fanno i giornali, però è anche un po' il succo di alcune discussioni, alcune polemiche che comunque ci sono, perché vuoi i genitori che si lamentano di questi compiti, vuoi il fatto che si dice spesso i bambini non hanno a casa così tutti i genitori preparati a dare una mano, perché spesso poi si tratta di riempire. Io mi sono ritrovato questa estate con i miei nipoti che li facevano questi compiti, e in molti casi era riempire dei libri con degli spazi vuoti, allora chiedevano spesso aiuto ai genitori, finisce che il compito lo fa i genitori. Vuoi per si chiamano parole crociate. Vuoi per sono qualcos'altro anche. Succede. Quali sono le motivazioni di questa sperimentazione? Le motivazioni è quella di provare a dare maggior serenità ai bambini, perché concentrando l'orario scolastico delle discipline, le chiamo così, letterarie, in uno stesso periodo, e non affastellando le discipline letterarie, quelle matematiche, permette ai bambini a restare concentrati sullo stesso argomento. Argomento che poi nel pomeriggio viene ripreso da quelle che possono essere le attività manuali. I concetti fondamentali sono due: concentrare le stesse discipline che si occupano dello stesso argomento nello stesso periodo e all'interno, per esempio, della mattinata, e poi alternare le attività manuali pratiche. Questo per permettere di toccare tutti gli stili di apprendimento dei bambini. Ma non quindi, tutti i bambini apprendono nello stesso modo. Ma questo è un cambio, mi viene da dire, epocale, ovvero non fare più che uno ha un'ora di matematica, un'ora di italiano, poi un'ora di geografia, ma di dire io in questa settimana mi occupo più delle materie umanistiche e settimana prossima farò le materie scientifiche? Perfetto. E però accanto, subito dopo le materie umanistiche oppure quelle scientifiche, c'è appunto le materie pratiche, le materie certo. artistiche. Se uno è messo male in matematica passa una settimana terribile, però. No, non è detto, perché essendo concentrato tutta la settimana su quell'argomento lì... A un certo punto la capisce... No, è giusto. Nella migliore delle ipotesi, altrimenti stai in apnea una settimana e poi aspetta che ritornino le materie e umanistiche. E c'è la rivincita la settimana dopo, però appena arrivano le umanistiche. No, mi scusi, preside, non volevo interromperla. No, semplicemente se io ho difficoltà in matematica, ne avrei tante a dover fare matematica 2 ore il lunedì e poi riprenderla il venerdì successivo. Si resta concentrati con il docente e con i lavori di gruppo. Senta, lei dice, lei dice, insomma, perché cercate di dare una serenità nuova al lavoro scolastico, concentrato in questa maniera, che poi diciamo, come dire, sottrae energie ai pomeriggi, perché si è già lavorato molto, soprattutto nel caso del tempo pieno, è naturale che ci sia meno bisogno di rielaborare questi contenuti poi a casa. Però le voglio fare la domanda proprio sui compiti a casa, che riguardano in generale anche chi magari non fa il tempo pieno e soprattutto tutti quelli che sono fuori da questa sperimentazione, che sono la maggioranza degli studenti italiani. Sono tutti in casa a fare i compiti. Ancora oggi, perché poi domani inizia la scuola, bisogna avere i quaderni pronti. È vero che spesso nel fare i compiti i ragazzi chiedono aiuto ai genitori e finisce che vince chi ha il genitore più bravo, più preparato, laureato, che ha fatto la scuola, e questa è non è giusto. Succede questo. Nella nostra classe così ipotetica di 20 alunni ce ne sono 5 che sono bravi e non hanno neanche bisogno dei genitori. Complessivamente ne abbiamo 10 con genitori che sono presenti, attenti e che sono una risorsa per i bambini, per la scuola, per il paese. Poi ne abbiamo una decina che invece non hanno genitori, che per motivi lavorativi, per tanti motivi, non riescono a seguirli. E questo vuol dire un grosso svantaggio per questi bambini, e noi pian pianino corriamo il rischio di perderli. Quali sono le impressioni, le voglio chiedere, dei genitori rispetto a questo lavoro che state facendo? Perché naturalmente c'è un fronte, lo sappiamo perché viviamo anche noi la vita reale, ma poi leggiamo i giornali. C'è un fronte dei genitori che si lamenta di questi troppi compiti, e poi c'è un altro fronte più, come lo vogliamo chiamare, più tradizionalista, più preoccupato di questo alleggerimento, no? La scuola deve essere comunque importante, non voglio dire dura, ma per qualcuno anche dura, e ti deve inculcare delle cose in zucca, e magari sono preoccupati dal fatto che qui si va ad alleggerire, no? Quali sono le reazioni dei genitori? Voi cosa rispondete a queste perplessità? Guarda, io 2 giorni fa ho parlato con una mia mamma molto molto attenta, e lei mi diceva: preside, quando la nostra maestra, che era conosciuta per una maestra che dava tanti compiti, siamo stati colti di sorpresa, eravamo fortemente preoccupati. Ma poi, conoscendo, vedendo giorno per giorno quello che succedeva e la tranquillità dei bambini, questo ci ha rassicurato. La speranza di poter poi continuare anche la scuola media, questo progetto coordinato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in particolar modo all'ambito territoriale di Biella, ha rasserenato questa mamma, sperando appunto. La sua preoccupazione era: ma se mio figlio smette di far compiti, poi dopo mi cambiate metodo sulla secondaria di primo grado, sulla scuola media, cosa può succedere? E allora, cioè, nel senso, se un bambino non è abituato a fare i compiti, poi arriva invece in una classe in cui viene riempito di compiti, non è più abituato? Era fortemente preoccupato di questo e del fatto che, non essendo abituato ad una maestra che dava tanti compiti, erano un po' sorpresi. Però devo dire che lei è rimasta poi contenta del risultato, ed è una mamma con un bimbo con disturbi specifici di apprendimento, per cui molto molto attenta. Voglio dire un'altra cosa sempre agli ascoltatori, che tra poco all'800 24 00 24 magari chiameranno e diranno la loro, la giro anche a lei, preside, siamo quasi in chiusura, però un argomento è anche questo, è un argomento che mi sta a cuore, quindi in qualche modo ho letto, mi sono documentato, oltre all'esperienza, diciamo, diretta mia, ma dei miei nipoti, ho delle figlie piccole che non vanno ancora, mia figlia Viola inizia quest'anno le elementari, quindi l'anno prossimo magari ne potremo riparlare. Ci sono però, oltre alla questione delle ingiustizie a casa dei genitori, anche teorie pedagogiche che dicono che bisogna lasciare il tempo, per esempio, no, a casa, a questi ragazzi, di rielaborare anche i contenuti che hanno imparati, magari dare delle letture da fare, ma non necessariamente di stare lì a fare le tabelline. È anche questa un'argomentazione che sta in questo progetto, preside? Sì, ma in maniera lieve, nel senso, non bisogna sovraccaricare i bambini di compiti perché hanno svolto già tutto, o comunque la gran parte del lavoro lo hanno fatto a scuola. A scuola, o comunque dovrebbero averlo ma fatto. Ma solo a scuola, per chi certo. resta fino alle 4:30? Mi scusi, no, è una domanda. No, in realtà si può fare questa sperimentazione anche per chi non fa il tempo giusto. Pieno? L'abbiamo fatta anche per il tempo normale. Anche per il tempo normale. Bisogna semplicemente organizzare l'orario in maniera tale che i docenti collaborino fortemente, per cui il docente che ha cominciato l'argomento della mattina viene poi accompagnato dal docente del pomeriggio con riprendendo gli stessi argomenti, magari su discipline diverse e in maniera laboratoriale molto più lieve. Va bene, grazie. Noi dobbiamo chiudere. Grazie. Al presidente dell'Istituto Pavese di BL, Antonello Papa, grazie per essere stato con noi. Allora, all'800 24 00 24 attendiamo i vostri commenti su questo: si può fare scuola senza compiti, meglio o peggio? E anche sul personaggio della settimana. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta Si può fare cronache da un paese migliore. Allora, sulla questione compiti a casa, per esempio, al 349-238-6666 c'è chi scrive: passiamo già così poco tempo con i nostri figli, i compiti sono comunque un modo di svolgere un'attività costruttiva insieme. Vedi, un modo per vederla, perché un altro ascoltatore, un altro genitore ti direbbe: abbiamo già così poco tempo da passare con i nostri figli che vogliamo passarlo senza dover compilare, come stavi dicendo tu prima. Ma secondo me, come sempre, dipende anche che tipo di compiti sono, perché se i compiti sono semplicemente che devo finire di colorare o fare cose lunghissime, poi bisogna stare insieme 12 ore senza poter parlare, capisco. Cerchiamo anche un personaggio della settimana che ha colpito, quindi ascoltatori, 800 24 00 24, chi è che ha colpito questa settimana? Andiamo con Domenico, che chiama dalla provincia di Foggia, vai. Benvenuto. No, Domenico si è distratto o si è addormentato? Abbiamo sentito un mugugno, allora proviamo con Luciano, che abbiamo anche lui in linea da Prato, però. Luciano, ci sei? Sì. Benvenuto, sì, vai. Buongiorno, sì. Buongiorno. Senta, io volevo intervenire per dire che per me mi sembra un'ottima idea. La scuola senza compiti. L'affermazione che è stato fatto a casa, no? Sì. Anche se non c'è i compiti, i genitori possono interessare lo stesso, tanto per cominciare. E quindi poi... Cioè non c'è bisogno, non c'è bisogno di compiti per far sì che i genitori insegnino delle cose ai propri figli, cioè se hanno voglia, se hanno del tempo, perché... Ne possono parlare di quello giusto. Che hanno studiato la mattina e via... Poi anche non essere un intenditore dell'argomento, ma se nei paesi del nord è già stato collaudato e va bene, non credo che i figli di un'altra nazione in Europa siano diversi a livello mentale e comportamentale. Seguiamo i buoni esempi e le buone pratiche, questo dice Luciano. I buoni esempi finlandesi. Sì, i finlandesi. Ma voglio dire un'altra cosa. Sì? L'obbligo del scolastico che l'hanno innalzato è stata una cosa sbagliatissima, prima di tutto per la spesa delle strutture però Luciano, questa è una cosa ancora in discussione, questa di alzare l'obbligo, per cui io non entrerei in questo argomento. Stamattina parliamo di un altro aspetto, che è quello dei compiti, hai detto la tua. Grazie Luciano, adesso è il momento di un'altra piccola storia, un si può fare. E ecco noi, buona domenica, Jacopo Melio, ben ritrovato Jacopo. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Jacopo. Ciao, allora, Jacopo. Se ve lo ricordate, se lo conoscete, la sua storia, Jacopo è autore della campagna Vorrei prendere il treno, che è partita. Quanto tempo fa, Jacopo, hai cominciato a rompere le scatole giustamente su questo tema? Tre anni fa. E noi ci siamo appassionati a te, perché in realtà ci rompiamo le scatole a vicenda, giustamente. E vogliamo sapere come vanno avanti le tue battaglie. Ti seguiamo. Vanno abbastanza bene, ovviamente ogni tanto che qualche festa, perché ci metto un po' i bastoni tra le ruote. Ecco. Allora, però quest'estate tu hai fatto un'altra punzecchiatura, un'altra puntura al sindaco di Castiglione della Pescaia, città nella quale tu stesso ti sei recato in vacanza, che ha dato la cittadinanza onoraria ad Alex Zanardi. Però tu hai detto, va bene la cittadinanza onoraria, va bene farsi la foto insieme, caro sindaco, però qui la città non è accessibile per i disabili, facciamo qualcosa. No, gli hai fatto anche una bellissima proposta al sindaco, venga in vacanza con me. Sì. La Maremma è un posto bellissimo, e si mangia bene, persone accoglienti, e quindi era un peccato, secondo me, vedere un posto così ricco di risorse non essere accessibile a tutti, non solo di famiglie, perché poi alla fine le barriere architettoniche sono un problema per chiunque, anche per una mamma, certo, con un passeggino, giusto? E quindi c'era un controsenso ironico, insomma, avere un grande cittadino come Alejandro a modello, ad esempio, e poi insomma rimaneva tutto così un po' sulla carta, un po' sulla carta patinata di questa foto, e tu questa cosa non ti è andata giù, perché tu sei uno che bada giustamente alla sostanza. Tra l'altro, diciamo che il problema non è che Castiglione della Pescaia, per chi lo conosce, ci sono delle salite, no, c'è il castello arroccato, eccetera eccetera. Tu parli di altre barriere architettoniche, di la stradina dove passano le macchine in riva al mare, ci sono molti scalini, ci sono dei marciapiedi, e quindi è su questo che tu sfidi il sindaco a fare qualcosa. Il sindaco ti ha risposto? Il sindaco ha risposto, ho preso contatti e spero di incontrarlo nelle prossime settimane. Tra l'altro, con degli amici architetti abbiamo già iniziato a buttare giù un progetto per un pezzettino di spiaggia libera accessibile. Bene. E io vorrò proporglielo, ovviamente, nel mio piccolo, mettendo in disposizione l'associazione Vorrei Prendere il Treno, e vediamo, insomma, speriamo che sia accolta positivamente. L'anno prossimo tornerai comunque a Castiglione, sì? Assolutamente. Comunque, come sempre, un sacco di complimenti, perché come diceva Alessio, badi al sodo e al concreto, quindi se riesci a incontrare il sindaco, tu comunque hai già fatto un progetto con degli architetti in modo da rendere accessibile un pezzetto di spiaggia, e complimenti, invece che stare a perdere tempo in altre cose. E secondo me Jacopo ci riesce, perché sì, con la sua testardaggine, ma anche con la sua simpatia, è in grado da un lato di spingerti, dall'altro di coinvolgerti. È vero. E quindi ti ringraziamo, ti salutiamo, grazie Jacopo, in bocca al lupo naturalmente per questa è per tutte le tue battaglie. Ciao, Vorrei Jacopo. Prendere il treno, trovate tutta la storia tra l'altro sui social, E siamo in chiusura di questa prima parte di Si può fare. 800 24 00 24, vi chiediamo di commentare quello che avete sentito, basta compiti, ma anche cerchiamo un personaggio della settimana che è il primo indizio ha colpito. Tra poco il segnale orario vi è offerto da cosa ti preparo? La tavola, prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin nel banco freezer. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, eccoci qua di nuovo. Buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. 800 24 00 24 è il numero verde. Riprendiamo, siamo in diretta dopo diverse domeniche nelle quali o eravamo registrati o c'erano altre cose. Insomma, la radio era un po' più ferma quest'estate, nel weekend. Ci siamo, siamo vivi, siamo fermi, siamo in diretta, siamo veri, siamo veri. Perché stanno arrivando meno telefonate, sì, ci stiamo preoccupando, chiamate. Chiedendo se... No, soprattutto il gioco, cari ascoltatori, perché come sempre il gioco con i nostri premi, oggi oggi cerchiamo un personaggio della settimana e il primo indizio che vi abbiamo dato è un indizio, se vuoi, anche abbastanza come dire, già ricco in sé di sensazioni. È questo: il personaggio ha colpito, quindi pensate a qualcosa che ha colpito, insomma, negli ultimi sette giorni. Hai aiutato troppo. Io invece devo rispondere a Mara, visto che prima abbiamo parlato di scuola. È una ascoltatrice che ci manda un bellissimo SMS e dove dice: ho visto mio nipote che, tornando da scuola, sdraiato sul letto nella sua cameretta, sembrava che dormisse. Alla domanda "ma che fai?" ha risposto: sto rielaborando le cose che mi hanno inculcato a scuola. E subito dopo ha preso la PlayStation. Devo crederci, chiede Mara. Devo dire, siccome ne abbiamo appena parlato con il preside, che giustamente sta sperimentando un nuovo sistema per cui non si danno più compiti, anche se i ragazzi devono rielaborare le cose che mi hanno inculcato, io direi: cara Mara, tuo nipote è un genio, però non stava studiando in quel momento, ma è molto bravo. Un genio, sono d'accordo. Allora, tra poco, tra l'altro, parleremo di altre due buone notizie, che sono il debutto a scuola della legge sul cyberbullismo, con il modulo per chiedere il ritiro dei contenuti sgraditi sul web. Quindi una cosa importante, il segretario generale del Garante per la Privacy ci spiegherà come si fa. E poi anche la questione delle mail aziendali, perché avete saputo c'è stato un caso di un dipendente che era stato licenziato perché aveva mandato una mail durante l'orario di lavoro alla moglie. Sua moglie ha fatto ricorso, ha detto: però non mi potete licenziare per questo, perché io stavo comunque lavorando, era solo una breve comunicazione. E soprattutto non potete leggere le mie mail. Per questo, perché c'è la privacy su questo. Secondo noi è una buona notizia, lo chiediamo anche a voi ascoltatori se è così. 800 24 00 24. Intanto ci ha chiamato Francesca da Firenze. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Senta, ecco, avallo quello che ha scritto la signora con l'SMS, perché il mio intervento è questo: sono a favore dei non compiti. Sì. Ho insegnato nelle scuole superiori i primi anni professionali e non davo compiti già da allora. Sono circa quasi 20 anni che non insegno più. Ed era amatissima, immagino. Come? Era amatissima per questo. Amatissima, ma anche contestata e con stalker da parte dei genitori, dirigenti, no? Dei dirigenti. Eh sì, ho smesso anche per questo di insegnare. Adesso la richiameremo, verrà sicuramente richiamata con questa nuova. No, guardi, non ci andrei neanche se mi pagassero il doppio, per assolutamente. Addirittura. Comunque, quello che voglio dire è che no, veramente è stata un'esperienza da questo punto di vista. Io addirittura davo i compiti in classe, facevo mettere i voti a loro, facendoli correggere a loro. E questa era una cosa che a loro non andava a genio, perché per me era un modo di rifissare le cose che avevamo fatto e di autovalutarsi. Quindi però Francesca sarà contenta del fatto che adesso, anche se in via sperimentale in sole 166 scuole italiane, però si sta sperimentando quello che lei il ha fatto metodo. In qualche modo, forse più realisticamente. Il mio metodo mi pare un po' eccessivo, però no, quello che volevo dire è che sono d'accordo, perché in qualche modo i ragazzi arrivano alle scuole superiori con una responsabilità maggiore, sia che non li facciano, sia che li facciano, anche perché io vado a lavorare e esplico il mio lavoro all'interno di quello che sono, dove sono. Quindi anche loro dovrebbero fare questo a scuola. A casa, poi, come diceva giustamente il bambino sul letto, il ragazzino sul letto, deve rielaborare, se no non ne hai il tempo. E vieni colto dalle ansie tue e dei tuoi genitori, che a qualche modo buttano su di te le frustrazioni di non essere riusciti a essere bravi a scuola. Certo. Va bene. Mi sembra un'analisi molto, molto precisa, molto precisa. E poi, se posso aggiungere solamente una cosa, i ragazzi forse dopo che tornano a casa alle 16.30, oltre a rielaborare, devono anche un po' occuparsi della propria vita, fare dell'altro, divertirsi, giocare, litigare e anche annoiarsi. Quelli che fanno il tempo pieno, assolutamente. Ma poi scusate, ma quando andava a scuola, perché uno poi parla sempre di quando l'ha fatta lui la scuola, no? Delle proprie esperienze, però mi ricordo che se, oltre a fare i compiti, un po' di compiti, soprattutto le medie superiori si facevano, qua parliamo di elementari, distinguiamo, però ci davano da leggere i libri. Io ho letto così tanti libri, pochi compiti e tanti libri, poi ho smesso praticamente perché dopo non c'è più tempo, quindi fate leggere questi ragazzi che poi dopo non avranno più tempo, è un momento importantissimo questo qua. Approfittiamo del tempo che hanno i ragazzi per fargli leggere il libro, che è una cosa che può fare chiunque, senza bisogno che il genitore stia lì ad aiutarlo. Scuola, però, c'è anche l'argomento vaccini, perché come sapete c'è stata la Puglia che ha appoggiato i ricorsi dei genitori e il Veneto soprattutto, che ha annunciato una moratoria del decreto che prevede l'obbligo dei vaccini per scuole materne e asili nido, ma anche alle elementari, con la multa, il meccanismo lo sapete, insomma, vi facciamo risentire due voci della settimana, perché poi Zaia ha fatto marcia indietro. Allora sentiamo prima la ministra Fedeli, che aveva dato contro a questa volontà del Veneto di sospendere il decreto. È un po' complesso, ma ci siamo capiti. E poi lo stesso Zaia. Il Veneto non aveva fatto un atto di giunta, ma diciamo un decreto interno. Anche su quello lui chieda che, diciamo, l'organismo preposto si pronunci. Però io considero, guardate, importante che lui abbia fatto la sospensiva, perché su questi temi credo che ci sia stato un atto di responsabilità istituzionale di tutti, della Lombardia e del Veneto, che è l'atteggiamento che le istituzioni dovrebbero sempre avere. Quando hai dei ruoli istituzionali è importante, diciamo, agire tutti insieme per un bene collettivo, che è quello della tutela della salute. Sembra che ci sia un dibattito che Zaia e la regione siano contro i vaccini. Noi siamo a favore dei vaccini. A novembre 2016, ricordo novembre 2016, quando non esisteva la legge Lorenzin, quando nessuno parlava di vaccini, il sottoscritto ha portato in giunta un provvedimento che obbliga tutte le scuole per l'infanzia da 0 a 6 anni, quindi gli asili, ad avere nelle classi almeno il 95% di bimbi vaccinati. Quindi dire che noi siamo contro i vaccini vuol dire cretinate, boiate. Allora, questa è anche la settimana è stata nella quale si è celebrato un anniversario che riguarda il Movimento 5 Stelle, 10 anni dal primo V-Day, è un compleanno importante, manifestazione senza Beppe Grillo, qualcuno dice Beppe Grillo ai margini. Assenza importante. Assenza che si è fatta notare, sentiamo che cosa ha detto invece Luigi Di Maio. L'8 settembre 2007 neanche volevamo candidarci. Per 2 anni abbiamo chiesto ai partiti di prendere in considerazione le nostre istanze e ci hanno ignorato. Poi siamo stati costretti ad entrare nelle istituzioni perché semplicemente non ci ascoltavano. Adesso dobbiamo andare al governo perché anche l'opposizione va bene, riesce ad ottenere risultati, ma questo paese ha bisogno di ben altro. Quindi io chiedo ai cittadini italiani di darci una mano, sia in Sicilia e sia a livello nazionale. Cosa ti preparo? La tavola. Prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin nel banco freezer. Vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, Giovanni da Pistoia, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, eccoci. Buongiorno a lei. Buongiorno. Buongiorno anche a tutti e due. Evviva. Allora, risponda alla domanda di chi è il personaggio della settimana. Sì, vai, sentiamo. Il personaggio della settimana è la sorella. La sorella di chi? Ecco, allora, voi avete richiesto un personaggio che ha colpito. Sì. Chi ha colpito ovviamente ha fatto il colpo. Il colpo si intende molte volte un furto, un ladro è colui che fa il colpo. Certo. Giusto? Giusto. E quindi, a giuste parole di Renzi, ladro lo dica a sua sorella, chi ha fatto il colpo, chi ha colpito è la sorella. Ma è una spiegazione straordinaria questa. È semplicissima, vorrei che fosse il nostro personaggio della settimana, che purtroppo non è, ma il giro è perfetto. E quindi se nessuno indovinerà, mi occuperò personalmente di far sì che lei vinca il nostro premio. Grazie Gavardini. Niente, ci mancherebbe. Complimenti per. Grazie. Mi viene da dire sciarada quasi, però sicuramente ho sbagliato parola. Cerchiamo ancora comunque un personaggio della settimana che ha colpito. Tra poco 800 24 00 24. Adesso altre buone notizie. E allora, per commentare queste due buone notizie che abbiamo già anticipato prima, è con noi il segretario generale dell'autorità garante della protezione della privacy, Giuseppe Busia. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e ben ritrovato. Allora, le notizie sono queste. Una riguarda la scuola. Abbiamo parlato stamattina molto di scuola con la questione basta compiti, una sperimentazione che parte in alcune scuole italiane, ma qua stiamo parlando invece di tutte le scuole, della legge sul cyberbullismo che prevede il docente responsabile, corsi di sensibilizzazione, eccetera, eccetera, ma anche e soprattutto la possibilità di chiedere la rimozione dei contenuti sgraditi sul web. È arrivato il modulo per chiedere questa rimozione. Poi l'altra notizia riguarda le mail dei dipendenti aziendali, ne parleremo tra un attimo. Busia, sulla questione cyberbullismo a scuola, come si fa, com'è questo modo? Come si fa a segnalare la volontà di rimuovere il contenuto, il modulo adesso che è a disposizione? È complesso? Come funziona? Allora, innanzitutto chi può segnalarlo? La legge consente di segnalarlo anche ai minorenni purché abbiano compiuto 14 anni oppure ai genitori a chi esercita la responsabilità. Come si fa? In primo luogo bisogna però rivolgersi al gestore del contenuto, al gestore del sito internet attraverso il quale è avvenuta la molestia, il recato, l'ingiuria, eccetera, eccetera. Sì. Quindi il primo passaggio che ragazzi e genitori devono conoscere è, in primis si va da chi che sia, Facebook, WhatsApp oppure il titolare del sito dove è pubblicata il filmato che non si vuole o che dà fastidio, la fotografia insultante o l'insulto, eccetera, eccetera. Come si fa ad andare da YouTube, da Facebook, da Instagram? Ci sono ciascuno di questi soggetti, sono tanti, sono infiniti, certo. Hanno nel sito, delle regole, dei moduli attraverso quali rispondersi e i più attrezzati si stanno organizzando per avere dei soggetti che si occupano specificamente di questo. Nel certo. caso in cui però i tempi sono molto stretti, nel caso in cui il gestore del sito non comunichi entro 24 ore dalla domanda di avere preso in carico la richiesta, sì. entro 48 ore non rimuova, oppure nel caso, è quello che diceva lei, non si riesca a individuare il soggetto che ha pubblicato il sito, eccetera, ci si può rivolgere al garante attraverso modulo che noi abbiamo reso disponibile sul nostro sito www.garanteprivacy.it. cioè sia il modulo sia una spiegazione sintetica di quello che ci stiamo dicendo, e il modulo serve ad accompagnare passo passo e a far sì che o il ragazzo o il genitore inseriscano tutti gli elementi utili, indispensabili per noi per poter individuare il contenuto. Perciò la mia domanda, Busia, se il modulo è quante pagine sono questo modulo? No, il modulo sono più pagine, ma sono più pagine proprio per nell'ottica di accompagnare la persona. In buona sostanza deve dire, perché poi nelle pagine deve dire chi sono, chi è il segnalante, sono il genitore, sono come mi chiamo e dargli i suoi recapiti, dire cosa è successo, indicandoci il sito, il luogo in cui si trova il materiale che si vuole rimuovere, che si vuole oscurare, di cui si chiede il blocco, e una breve descrizione di cosa è accaduto. Però non è una cosa che richiede più pagine. Non è una cosa che richiede, che ne so, per esempio l'assistenza di un avvocato, una cosa troppo complicata, una cosa alla portata di chiunque. È qualcosa di molto semplice, il modulo è dettagliato proprio per guidarlo, lo legge un ragazzo di 15 anni, è in grado di compilarlo al meglio anche un ragazzo di 15 anni e serve Perfetto. Che il ragazzo non dimentichi di darci tutti gli elementi che ci servono. E più in fretta possibile. Ad esempio allegando la fotografia o indicandoci del dove contenuto. Possiamo trovarla. Perfetto. E deve essere fatto naturalmente, questo diciamolo, velocemente, rapidamente. Magari a volte questo pentimento può avvenire, pentimento perché magari inizialmente può essere anche un contenuto, una foto, un video nel quale si era coinvolti senza rendersi conto, passa qualche giorno, però bisogna poi sbrigarsi il prima possibile per intervenire. Credo che la rapidità sia importante. Senta Busia, la questione che lei citava, WhatsApp, perché un conto è una piattaforma come può essere Google o Facebook, un conto è una messaggistica privata come WhatsApp e ce ne sono altre. Si può intervenire anche all'interno di queste messaggistiche private? Guardi, noi vedremo via via i casi che verranno e sicuramente un atto di cyberbullismo può essere portato avanti anche attraverso questo, pensiamo a una chat, pensiamo a tutto questo. Perché lo stesso WhatsApp si vende come un social network, quindi direi che bisogna trattarlo interamente come un social network. Noi non abbiamo precedenti specifici su questo, però sicuramente a seconda delle modalità, WhatsApp è uno strumento che può essere utilizzato in tanti modi, potrebbe potrebbe esserci anche all'interno di WhatsApp un caso di questo genere. Io penso, immagino soprattutto le chat aperte fra compagni di scuola, in cui vengono conservati e sono visibili, e quindi ci si comporta come se fosse un vero social network, anche se WhatsApp nel caso di specie è sempre di più un operatore di comunicazione, naturalmente un operatore telefonico. Bene, chiarito questi aspetti, informazioni di servizio, ma insomma era dovuto. Poi ci sono tutti gli altri aspetti che riguardano il docente responsabile all'interno di ogni scuola. La cosa importante è che il ragazzo che si attivi prima, cercando di raccogliere anche elementi per poterli fornire a noi, col gestore del sito e poi a noi. E l'altra cosa naturalmente è il lavoro che lei ricordava all'inizio, di formazione, consapevolezza che i ragazzi devono avere, perché quanto mai col cyberbullismo le vittime e i carnefici facilmente si sovrappongono tra loro e non si rendono conto anche di quanto producono, perché al di là della rimozione del dato in molti casi si arriva a reati e lì vittime e carnefici, appunto anche i carnefici molto spesso diventano vittime. Per questo formarli, evitare che si creino, questo aiuta le vittime ma aiuta anche chi inconsapevolmente o con scarsa consapevolezza commette questi atti. Certo, ma questa la questione del docente referente, che è una delle novità, che in ogni istituto esiste un docente referente, sta funzionando oppure in realtà i ragazzi a 13, 14, 15 anni non si fidano del fatto che sia un docente e se la risolvono più fra di loro? Beh, intanto bisogna dire che debutta adesso, per cui diciamo un bilancio credo che sia è un po' prematuro, la domanda c'è, no, ha ragione, non è compito del garante farlo, che spetta più all'istruzione, però sicuramente quello che il docente referente, tutti i docenti devono cercare di garantire, è la consapevolezza dei ragazzi, capire che questi atti possono portare veramente male a chi li subisce e anche a chi li compie. Certo, l'importante è che insomma i ragazzi adesso sanno che all'interno della scuola c'è un docente, un professore che c'è un nerd che è sensibilizzato su queste tematiche e gli può dare una mano se poi il ragazzo sceglie di affidarsi anche a questo strumento. Senta, l'altra notizia è questa, il caso della Romania condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani perché un dipendente era stato licenziato dopo che l'azienda aveva scoperto che aveva mandato delle email private durante l'orario di lavoro, ma la Corte Europea ha detto che questa è una violazione della privacy del dipendente. È una buona notizia? A noi sembrerebbe di sì, sembra di sì che sia una buona notizia, no, per la nostra privacy. Come dobbiamo prenderla? Io credo che sia assolutamente una buona notizia, è un giudizio assolutamente ragionevole. Quello che ha detto la Grand Chambre, al di là del caso singolo, perché poi ogni caso va guardato nella sua specificità, però quello che ha detto è: guardate, anche se esisteva un regolamento che prevedeva, in cui il datore di lavoro aveva detto guardate, io in certi casi posso guardare le mail, guardare i messaggi che mandi, esiste una sfera incomprimibile per cui non si può passare al licenziamento, alle misure più estreme, semplicemente perché nel caso di specie questo era un ingegnere che aveva utilizzato un account che era stato predisposto o chiesto che venisse predisposto dal datore di lavoro per mandare anche nell'ambito dei diversi messaggi un messaggio o più messaggi alla fidanzata e al fratello. Quello che dice la Grand Chambre, quindi diciamo l'organo di appello, perché c'era stato prima di segno diverso una pronuncia della sezione di primo grado, cosa dice? Dice guardate, ci vuole proporzionalità, ci vuole misura, che è un po' anche quello che nella nostra giurisprudenza interna, anche giurisprudenza del garante, noi abbiamo. Non solo, sono due gli ingredienti fondamentali che riguardano l'utilizzo di questi strumenti che vanno dal telefono ai siti internet, appunto alla posta elettronica. Uno, ci vuole trasparenza da parte del datore di lavoro, deve informare di quali sono le pratiche che lui utilizza. Noi consigliamo di creare un vero e proprio disciplinare: guardate, la mail d'ufficio si usa per questo e per questo, io posso effettuare in determinate occasioni dei controlli, eccetera eccetera. Ti devono avvisare, tu sei un dipendente, ti devono avvisare. E due, e questa è la novità direi principale della sentenza, ci vuole misura. Non posso fare un disciplinare che dice isolo il lavoratore, non può fare alcunché durante le 10, 8, quelle che siano ore di lavoro, perché le persone hanno una sfera di necessità di comunicazione che, tra l'altro, utilizzando internet eccetera, non comporta neanche costi particolari, hanno una sfera incomprimibile, per cui non si può del tutto evitarlo. D'altro lato, se gli eccessi ci sono, e qui la giurisprudenza è ampia, per cui se io passo il tempo a parlare con la fidanzata o col fratello, evidentemente questo è sanzionabile, non è consentito. Quindi quello che ci vuole, il lavoratore sul luogo di lavoro è una persona, noi siamo esseri che comunicano e comunicanti, se un minuto lo dedico a mandare un messaggino nell'ambito delle 10 ore, questo può essere tollerato, anche se mi è stato detto che quello strumento, ovviamente questo va calato volta a volta nel caso, nella specificità delle regole che ci sono, del lavoro che svolgo, eccetera eccetera, va considerato il tipo di sanzione a cui va incontro il lavoratore, un altro elemento che mette in luce la Corte. E quindi ci deve essere trasparenza e misura. Ma è molto parte, precisa la questione della misura. Quello che mi chiedo è chi decide quando la misura è colma. Chi decide? Il giudice o in alcuni casi anche noi. Noi abbiamo tanti casi in cui ci chiedono e veniamo coinvolti e ci si dice questa misura è come dire, ragionevole o no. Noi in genere decidiamo ex ante, il giudice ex post, nel senso quando ci sia una, diciamo, una causa, venga preso un provvedimento da parte del datore di lavoro, si valuta se è utilizzabile, certo, quel dato raccolto, se il comportamento era lecito, sì, perché altrimenti non si fa. Quello che è importante, sì, in tutto, prego, questo, l'insegnamento di fondo è il rapporto di lavoro fra datore di lavoro e dipendente improntato alla misura, ma anche al rispetto di una sfera di dignità. Sì. Misura che deve avere il lavoratore, ovviamente non abusando, e l'abuso è punito. Misura che l'azienda deve avere il datore di lavoro, certo, nel non privarsi della persona che ha davanti, della persona, la persona, persona che, come ha detto lei, Busia, la macchina più conveniente, esatto, c'ha tutta una serie di cose. E poi vogliamo spezzare una lancia a favore del messaggino o della mail durante l'orario di lavoro alla fidanzata, chi ha detto che questo porta via lavoro, porta via produttività. Magari uno poi dopo lavora anche meglio perché è più contento, ha preso appuntamento anche per la sera con l'amico o con la fidanzata ed è più felice. Grazie Busia, grazie, buona mille, giornata, grazie al segretario. Magari uno alla propria fidanzata scrive tipo torno alle 11 di sera perché devo stare qua a lavorare. Devo fare gli straordinari, devo fare gli straordinari. 800 24 00 24, anche su questo argomento, cari ascoltatori, aspettiamo il vostro punto di vista. Intanto c'è Antonella che ci chiama da Genova. Antonella, benvenuta. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e due. Vai. Allora, secondo me il personaggio è, sì, Peggy Whitson. Perché quando avete dato, la donna astronauta dei record, quando avete dato l'indizio che ha colpito, si è materializzata subito l'immagine di questa navicella che atterrava violentemente al suolo. E quindi ho pensato a lei, ecco. Cara Antonella, la notizia ci colpisce ed era una notizia che colpiva, non era però questo il personaggio, non era lei l'astronauta, il personaggio che avevamo scelto, grazie. Però non c'è andata lontanissimo, possiamo dirlo, non si può dirlo, non si può dirlo, ormai l'hai detto. Anna da Varazze. Io penso che si tratti dell'uragano Irma. Sì, naturalmente notizia che conoscono tutti, l'uragano che si sta abbattendo sul Centro America, ha già fatto parecchi danni, anche vittime, sta andando verso la Florida. Non era questo però il personaggio, Anna, era, diciamo, un po' facile se vuoi, perché ha colpito l'uragano, però insomma anche qui possiamo dire che tutto sommato non siamo lontanissimi. Maria Grazia da Milano. Sì, pronto? Prego Maria Grazia, tocca a te. Buongiorno, per me il personaggio potrebbe essere il presidente della Corea del Nord, Xi Jinping, Kim. Sì, che ha colpito ancora una volta con, sì, i suoi razzi. Per fortuna non ha ancora colpito nessuno, sta facendo dei lanci dimostrativi piuttosto inquietanti, non ha ancora colpito, però insomma, diciamo che anche lui ha colpito quantomeno l'ambito delle nostre preoccupazioni, e forse anche qualcosa di più. Maria Grazia, però non era questo il personaggio, non era questo, quindi abbiamo intanto, come sempre, si pescano un po' di notizie della settimana. È il bello di andare ad indovinare un personaggio della settimana. Alcuni erano anche dei trappoloni, sì, sì, che avevamo pensato, esatto, tipo l'uragano, però è un altro personaggio che ha colpito. Vogliamo dare un altro indizio? A questo punto possiamo dire che il nostro personaggio è anche dolce. Vai, così. Basta. Ottimo, oggi siamo ottimo generosi. Indizio. 800 24 0024. Si può fare, si può fare, si può Si può fare. Cronache da un paese migliore. No, you could have been a wonder, taking your circus to the sky. You couldn't take it on the tightrope. No, you had to take it on the side. You always like it undercover, tucked down between your dirty sheets. But no one's even listening to you. And we're playing a hollow. Allora, è un po' che si parla di deradicalizzazione a proposito di terrorismo e di potenziali terroristi. Noi che siamo Si può fare e cerchiamo sempre il lato buono della faccenda, non potevamo non interessarci a questo. Il primo master in prevenzione della radicalizzazione del terrorismo che è organizzato dall'Università di Bari è con noi il professor Nicola Colaianni. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, professore, abbiamo detto un master di deradicalizzazione, questa cosa di cui si sta un po' parlando, cioè faccio un piccolo cappello, si parla del fatto di intervenire su quell'area di potenziali terroristi, aspiranti, persone che spesso magari in carcere vengono contattate da altri capi che magari sono già dei veri e propri fiancheggiatori o veri e propri terroristi, magari irrecuperabili anche da un certo punto di vista, però c'è questa cooptazione di ragazzi che abbiamo spesso visto anche da un eccezionale documentario fatto da un giornalista francese che ha avvicinato alcuni di questi jihadisti, che erano ragazzi senza arte né parte, che venivano coinvolti. Allora si cerca di entrare a quel livello lì, no? E operare questa deradicalizzazione. Io ho fatto questa introduzione e sicuramente mi sono espresso anche in maniera non corretta. La prima cosa che le voglio chiedere però è a chi si rivolge intanto un corso di studi dell'Università di Bari di deradicalizzazione del terrorismo islamico. Ma si rivolge a tutti i soggetti che operano nel campo dell'educazione, quindi gli insegnanti, quelli che operano nel campo della prevenzione, la prevenzione è attuata anche dalle forze dell'ordine, dalla magistratura attraverso le misure di prevenzione. Noi abbiamo una legge abbastanza risalente del 56 che però ovviamente in un ordinamento di carattere monoculturale, monoreligioso come era quello dell'Italia dell'epoca, lo è stato fino a 20-30 anni fa, ovviamente non prevedeva fenomeni come quello a cui lei ha ben accennato, cioè fenomeni di conversione ad una religione ma nelle forme, diciamo, della sua primitiva rozzezza, cioè forme che prevedano la violenza anche e quindi l'estremismo violento, certo. L'estremismo violento e quindi una filiazione anche ad organizzazioni terroristiche che avviene soprattutto nelle carceri, ma non solo. Qui c'è un difetto di impostazione culturale, sì. del quale rispondono anche le scuole, rispondono tutti quanti gli educatori. E dunque, sono diversi gli ambiti in cui può venire il carcere, certo, ma anche la scuola, certo. A volte anche i centri culturali, certo. Le moschee. È vero che certo. È proprio Bari che ha scelto di fare questo master, il primo forse in Italia di questo genere, anche perché sulla scorta di un fatto di cronaca realmente avvenuto, cioè la storia di una persona normale che si è radicalizzato, no? E era fra l'altro un italiano, e quindi è proprio una storia, come dire, esemplare in qualche modo che è accaduta. Sì, sì, questa è stata l'occasione immediata, nel senso che nel momento in cui è sorta la necessità di sottoporre a giudizio della magistratura questa persona ad una misura di prevenzione, naturalmente si è posto il problema di chi interessare, di quale mediatore culturale potesse essere interessato per un'opera di deradicalizzazione. E siccome mancano figure professionali in questo campo, la magistratura si è rivolta all'università che ha avuto così l'occasione di svolgere la sua funzione fondamentale. Ma qual era la storia, professore, la storia di questa persona che forse può essere in qualche modo anche illuminante? Ma la storia storia per di questa persona casi. È di un convertito, appunto, che ha accettato l'Islam, non sappiamo in base a quali insegnamenti particolari, in base a quali guide spirituali, ha accettato l'Islam nella sua versione radicale, che lo ha portato a pensare di dover radicalmente cambiare il suo sistema di vita anche nell'ambito della famiglia, con la moglie, con le figlie. Voleva imporre dei comportamenti coercitivi anche, costringendo le figlie. Certo. Sì. Detto, normalmente il neofita si raccoglie le religioni o le ideologie del genere nelle loro forme più estremistiche, più radicali. Noi abbiamo verificato, non noi come università, ma in generale come studiosi, c'è una risoluzione europea anche del 2015 che ha accolto poi queste conclusioni. Abbiamo verificato che tutto ciò costituisce un po' il brodo di coltura, il background per affiliazioni di vere e proprie, vere e proprie. Cioè c'è un ambito nel quale potenziali terroristi come se fossero in riscaldamento prepartita, no? Poi qualcuno faccio una metafora che è un po' è leggera e può sembrare irritante, però è questo il concetto, persone che stanno lì e poi a un determinato momento può scattare la fase veramente preoccupante, che è quella poi dell'azione violenta. Però quello che le voglio chiedere, immagino la sua risposta sia affermativa, c'è la speranza, no? La possibilità di intervenire e di cambiare il corso di queste vite, di indirizzarle altrove, altrimenti credo che non lei personalmente non ci lavorerebbe se non avesse questa convinzione. Ma che elementi si possono dare a chi ci ascolta di fiducia nel fatto che questo passaggio possa avvenire? Cioè, non dico una conversione, ma insomma un ritorno a una normalità, a un qualcosa che è lontano dall'estremismo e dalla violenza di questi radicalizzati. Beh, noi abbiamo naturalmente questa fiducia. Tre volte mi hanno chiesto se ritengo che questo master possa essere efficace. Naturalmente per l'università, per degli studiosi, è un dovere culturale a prescindere dall'efficacia, è questo che dobbiamo fare. Però noi crediamo anche che possa avere una efficacia, e l'elemento di fiducia e nella cultura della Costituzione. Noi pensiamo che qui ci sia un deficit che parte dalle scuole e poi naturalmente va avanti nelle professioni, nella vita sociale, che è un deficit di cultura della Costituzione, che è una Costituzione di carattere pluralistico, che consente ovviamente, riconosce tutte le conversioni, e però cerca di distinguere la sfera religiosa dalla sfera politica, e questa cultura ancora manca, per cui si può pensare nei fenomeni di conversione, di radicalizzazione, che aderire ad un'altra religione comporti necessariamente una contrapposizione al modo di vita e all'ordinamento delle società occidentali, in particolare a quella italiana. Ecco, la nostra fiducia è che invece, diffondendo questa cultura, si possa avere un progresso, una crescita ordinata anche di questi approfondimenti culturali, religiosi, che ogni cittadino è libero naturalmente di scegliere, di svolgere, di scegliere. Certo, ma e ci sono già degli iscritti a questo master? Adesso finora abbiamo una ventina di iscritti, più una serie di varie richieste che non si sono ancora formalizzate, però abbiamo una ventina, noi arriveremo comunque al massimo a 50 persone, perché dopo non sarebbe gestibile, come lezioni. Ma di questa ventina sono studenti, sono forze dell'ordine, sono operatori culturali? No, noi ci rivolgiamo a laureati, questo è un master post laurea, e quindi sono già figure professionali di vario genere. Abbiamo anche un funzionario di polizia, finora, così come abbiamo per esempio figure che qualche misura non ci aspettavamo, per esempio un commercialista, abbiamo figure diverse, abbiamo docenti, sono le persone le più varie che possono... In alcuni casi immagino possono essere anche le amministrazioni, gli enti locali o che ne so, le istituzioni penitenziarie che inviano alcuni propri dipendenti a fare, magari quelli già formati, dirigenti, a fare un master come questo per poter acquisire competenze. Io la ringrazio, professor Colaianni dell'Università di Bari, il primo master, abbiamo detto, in prevenzione della radicalizzazione del terrorismo, 800 24 00 24, chiaramente anche per commentare questa notizia. Devo darvi però una notizia che riguarda il maltempo, perché c'è stato un'ondata molto grave di maltempo nella zona di Livorno e si parla di vittime, frane e smottamenti, si parla di vittime, per cui massima attenzione, aggiornamenti naturalmente nel giornale radio delle 10 da questo punto di vista. Abbiamo un'ascoltatrice, prima di andare sul traffico, sì, Sonia da Stresa, benvenuta, vai. Buongiorno, buongiorno. Piacere sentirvi. Grazie, grazie. Anche per noi. Niente, penso che il telefono ovviamente per il gioco. Sì. Penso sia l'asteroide del Mulino Bianco. No, non è il Mulino Bianco, del Buondì. No, voglio morire da ridere, Sonia, perché... Voglio morire da ridere, Sonia, perché hai indovinato, ma hai sbagliato. Cioè, cosa dobbiamo fare? Il notaio, ora che consulto il notaio, aspetta che mi giro un altro, il notaio immaginario, ma dice che va bene. È l'ufficio marketing della Mulino Bianco, immaginiamo, che ha chiamato giustamente. Invece è il Buondì Motta. Allora però vediamo se ci racconti bene la storia. C'è una bambina saccente che dovrebbe essere colpita lei dall'asteroide. E poi c'è una mamma che viene colpita dall'asteroide a seguito... Parliamo intanto di una pubblicità, no? Esatto. Pubblicità, ecco. Certo. Beh, anche la mamma non è simpaticissima però, perché la bimba, lei ha ragione, è saccente, chiede a un'età improbabile una merendina complessa, biologica, iper con un sacco di caratteristiche. E la madre però nega l'esistenza di questa... di questa merenda. La dinamica, esatto, è questa. La dinamica è questa, poi arriva l'asteroide sulla mamma e questa pubblicità ha ovviamente sollevato qualche critica, un humor nero che a qualcuno non è piaciuto. Io no, posso dire la verità, non l'ho vista questa pubblicità. Ma molti non l'hanno vista, ma tutti ne parlano. Esatto. Quindi direi che dal punto di vista del marketing è assolutamente una pubblicità vincente. Quindi non posso dire niente. Ma piove sul Lago Maggiore? Piovigina al momento. Piovigina, perfetto. Però è molto freddo. Molto bene. Così abbiamo anche dato il meteo dato di il Stresa, meteo, non solamente di Monterosa e non solamente di Livorno, da dove vengono dove invece notizie allarmanti, esatto, allarmanti che ci preoccupano, e anche corso sul giornale Maggiore. Radio, non so se la redazione poi ha già pronto qualche aggiornamento, ma non credo per ora. Grazie Sonia, intanto grazie. Oggi sei ha tu vinto. La nostra vincitrice. Traffico, torniamo tra poco. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Such a happy couple, allora, amici del no profit, amici volontari all'ascolto, abbiamo una bella notizia per voi, ma anche amici degli amici, no? Ti ricordi i cavalieri, chi spingeva amici. I cavalieri, spingitori di cavalieri, cioè, Reeducational Channel, no? C'è una bella notizia per le associazioni di no profit ed è una nuova piattaforma di crowdfunding lanciata da Intesa San Paolo. È con noi Andrea Lecce, responsabile marketing banca dei territori di Intesa San Paolo, benvenuto. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Buongiorno. Allora, ci Buongiorno. Spieghi come funziona questa nuova piattaforma di crowdfunding. Noi abbiamo lungamente parlato nella scorsa stagione di crowdfunding, avevamo una rubrica nella puntata del sabato che adesso vedremo se riprenderemo o no, in che forma. Lecce, cosa state facendo voi di Banca Intesa per il mondo del no profit tramite il crowdfunding? Possiamo anche ricordare cos'è il crowdfunding, perché magari non tutti sono aggiornatissimi. Certamente. Forfunding è la piattaforma di raccolta fondi che abbiamo proprio lanciato in questi giorni, che serve per donare al progetto che sta più a cuore alle persone. Attraverso forfunding, sia clienti che non clienti possono in sostanza donare su qualsiasi canale, su qualsiasi mezzo di pagamento verso i progetti che sono stati individuati senza alcun costo. Ogni euro in sostanza donato andrà al progetto. Cifre piccole e o meno piccole? Cifre questo. Piccole di qualsiasi importo, certo. Quindi grossi donatori, ma anche, questo conta molto, anche piccoli importi. Perché, esatto, ci sono progetti da 3-4 mila euro, ci sono progetti che hanno sfondato i centinaia di migliaia di euro, e lo sappiamo, nelle grandi piattaforme naturalmente. Sì, l'importante è che i progetti siano effettivamente realizzabili, concreti, e noi diamo un avanzamento di quello che è la raccolta e anche una rendicontazione puntuale della realizzazione. Questo è un aspetto fondamentale, perché tutta la donazione si basa su un gesto generoso di empatia, ma che richiede anche fiducia certo. Sul fatto che i soldi arrivino poi veramente poi ai progetti. Soprattutto ci sono alcuni di questi progetti dove in realtà, se non si raggiungono la quota minima, il progetto neanche parte, quindi in realtà uno i soldi non li dà, giusto? Quindi se c'è in mezzo una banca che garantisce il fatto che i soldi tornino indietro, è così? È così, perché è un fatto di serietà. Se non si raggiunge la cifra, è evidente che il progetto non può essere realizzato. Non va, quindi i soldi tornano indietro. È accaduto anche a me, tanto finanziare un progetto e poi mi sono tornato indietro. E perché avete scelto di sostenere, e in che modo, il no profit? Ecco, dunque, noi abbiamo una storia di apertura al sociale che è pluriennale e non è solo relativa a questo tipo di iniziativa. Non è un fatto solo e soltanto tecnologico e di piattaforma, perché parallelamente alle piattaforme abbiamo anche avuto 900 ambasciatori del sociale, dei colleghi che si sono candidati per sensibilizzare persone, creare e gestire eventi a sostegno delle nostre filiali, creare insomma una sorta di viralità positiva anche nella relazione uno a uno, una specie anche di comunità. Lecce, scusi, siccome non abbiamo tantissimo tempo, voglio ricordare anche il nome della piattaforma, intanto, che è utile: forfunding.it. Perfetto, forfunding. Questa iniziativa, come dicevo, si inserisce in una visione un po' più ampia, perché appunto pensiamo e siamo convinti che il modello di business vincente di un'organizzazione combina sia la generazione di utili, ma anche la capacità di valorizzare le persone. E noi non potremmo chiedere di donare ai nostri clienti se non avessimo fatto questo per primi. Esatto, quindi la particolarità, vado a sintesi perché devo veramente chiudere, che poi voi questi progetti anche già li sostenete: UNICEF, Bambin Gesù, Gruppo Ospedale San Donato, per dire i primi. Grazie Andrea Lecce di Banca Intesa, noi chiudiamo. Grazie. Ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Laura Vanosso oggi in assistenza in redazione e Peter Bescapè in regia. Ci sentiamo sabato prossimo. Ciao da Alessio Maurizi. E ciao da Carlo Gabardini.